che non ci sono adesso e che a parte che siamo seguiti da diverse persone in streaming, quindi e poi c'è varie altre gente che oggi ci perdiamo i palermitani perché hanno Teleghiglia a Palermo e quindi tutti e due i palermitani che ci seguono in streaming non ci sentiranno in streaming questa sera, ma recuperano il coso. Quindi siamo all'incirca a metà o poco più di metà della sezione teorica del corso, quindi invito tutti i non uditori, cioè i ricercatori come li abbiamo definiti, tutti coloro che hanno presentato il progetto a pensare a come attrezzarsi per la seconda parte del corso. Vi saluto tutti anche più formalmente di come l'abbia fatto prima. Si usa, quindi mi piegherò a questo uso pagano di augurare buon anno. E spero che non siate troppo arrugginiti, però, perché adesso questa cosa è capitata. Allora, e prima di cominciare mi permetterete di rivolgere un ringraziamento particolare ad Amos, perché si è prestato ad una cosa realmente complicata, difficile e insomma anche un po' simpatica, cioè quella di infilare una sua lezione dentro a due mie su di un argomento con più, insomma, voglio dire, insomma, l'archeologia l'abbia fatta in questo modo, la ragione era che io non potevo perché avevo un'altra cosa da fare fuori di Milano in quel giorno lì e quindi doveva farla per forza, se no sarebbe stato, anche se ci fossimo divisi i compiti, sarebbe stato più normale che lui facesse le prime due e io l'ultimo, oppure io le prime due e lui l'ultimo, ma insomma fare una roba in mezzo perché c'era un'impostazione già data nella mia in presenza e poi c'è questa di oggi che è quella che chiude le tre lezioni sulla cosa. Quindi è un ringraziamento particolare perché è un compito veramente ingrato che si è assunto, insomma. Va bene, credo di aver esaurito i preliminari. Allora, per un po' di settimane abbiamo invece gli orari, diciamo, i giovedì sono tutti, ecco, vedete che già sono a, va bene, non sono totalmente a mio agio con questi. Allora, temo che, appunto per il fatto però che è passato, io so che voi sono sicurissimo e confido che tutti avete ripassato, eccetera, però, come diceva un noto leader politico italiano, a pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre, vi offrirò quindi in breve, spero, un attimo di riassuntino a modo mio di quello che abbiamo detto Amos e io nelle due lezioni precedenti, che sono precedenti a Natale. Allora, che cosa succede con questo? Siamo qui ancora che ci stiamo ad arrabattare su questa archeologia del sapere. Che cosa ha fatto Foucault prima di questa archeologia del sapere? Ha analizzato in un modo un po' particolare, questo lo vedevo meglio nell'ultimissima lezione, in modo che non è risultato chiaro per molti dei suoi contemporanei e purtroppo non risulta chiaro neppure adesso per molti dei suoi lettori di adesso. Vi segnalo un articolo di Pieraldo Rovatti che chi lo vuole cercare se lo cerca sulle pagine di Repubblica, molto bello, breve, concettoso, ma appena uscito, che ha dato luogo a un flame terribile su Facebook tra me e un gruppo di altre persone che non avevano capito neanche quello che voleva dire Rovatti. Il succo dell'articolo di Rovatti era che bisognerebbe cominciare a leggere Foucault, dice lui, cominciare a leggerlo ora, perché evidentemente la sua cosa implicita è che nessuno lo ha letto, o nessuno lo ha letto bene, o nessuno o comunque in molti ancora non hanno capito qual è la sua impostazione. Allora, grosso modo, il discorso che fa Foucault sino dall'inizio di questo libro, ve lo riassumo con parole mie, insomma, quindi con il mio linguaggio, eccetera, e forse, non lo so, spero di non tradire troppo le intenzioni di Foucault stesso, ma insomma mi pare che potrebbe essere riassunto così. Foucault studia le continuità e le discontinuità delle atmosfere teoriche e culturali che si sono succedute nell'Occidente in un certo periodo di tempo, di volta in volta sceglie se sono gli ultimi 4 secoli o se è tutta la spanna di tempo che va dai Greci a noi, eccetera, eccetera, ma è diffidente verso l'autorappresentazione di questi modi di pensare, di queste teorie, di queste. Non si fida del modo in cui di volta in volta i pensatori grandi e piccoli, insomma, diciamo, ciò che si è detto, ciò che la cultura di una certa epoca ha detto a proposito di se stessa, Foucault non si fida di questo. Dice, c'è qualcosa che non va. In questo, e facciamo una piccolissima, faccio una lievissima digressione, spero proprio poi ritorniamo sull'asse di questo, diciamo, discorso. Forse ne abbiamo già parlato, forse ve l'ho, diciamo, già detto. Paul Ricoeur, un filosofo più o meno contemporaneo, insomma Foucault forse un po' più vecchio di lui, ma insomma, coniò una volta, prendendo a prestito in realtà un'espressione dello stesso Nietzsche, il termine di pensatori del sospetto, esattamente per parlare di tre grandi dell'Ottocento, dall'Ottocento fine dell'Ottocento, cioè per Marx, per Nietzsche stesso e per Freud. Dice pensatori del sospetto, perché vuol dire, perché sospettano sempre che ci sia qualcosa. Però attenzione, essendo Ricoeur un ermeneutico, un rappresentante, quindi un post-heideggeriano, insomma, uno che ha sviluppato l'heideggerismo nel senso che abbiamo detto dell'ermeneutica, in modo forse un po' diverso anche da altri, ma insomma tutti quanti quelli che aderiscono a questa cosa, grosso modo, qual è la sua impostazione di Ricoeur, come di Gadamer, come anche Sass di Heidegger, insomma, adesso io ve la dirò in modo un po', mi rendo conto che speriamo che nessun filosofo mi senta, così non faccio figuracce, ma insomma, il sospetto che Ricoeur attribuisce a questi tre personaggi è un sospetto che dice, perché qui qualcuno ha travisato le cose, perché le autorappresentazioni servono per autoglorificarsi, ma dietro ci sta un nucleo di verità, la verità è diversa. Le cose non stanno così, le cose stanno in un altro modo. Bene, se da un certo punto di vista per Marx e per Freud questo atteggiamento, questa impostazione può funzionare in qualche modo, per Nietzsche non funziona assolutamente. Scusate, ma c'è un'interlocutrice indesiderata. Per Nietzsche le cose non funzionano, non possono funzionare, lo vedremo meglio nella prossima lezione, e non funzionano così neanche per Foucault. Il senso in cui si può dire che Nietzsche e Foucault sono due virgolette pensatori del sospetto non è quello di pensare che Nietzsche e Foucault intendano raccontare, adesso vi racconto io la verità, vi dico io adesso come sai. No. Il loro intento, quello di Nietzsche in modo più ambiguo, certo, quello lo vedremo anche nella volta prossima, quello di Foucault in modo più esplicito e sempre più esplicito mano a mano che lui è andato avanti nella sua vita a fare le proprie ricerche, invece è un intento scettico molto più radicale. In realtà l'intento di Foucault è quello di dimostrare che non esiste alcuna verità nel senso con la V maiuscola, e cioè qualche cosa alla quale ogni essere umano debba essere forzato ad aderire se ha l'animo sgombro di pregiudizi e se ha un minimo di raziocinio. vedremo che il modo in cui anche Foucault usa il termine verità è un modo molto più relativistico, molto più scettico, molto più... certo che c'è una verità, certo che ci sono discorsi di verità, certo che si parla, certo che c'è una volontà di verità, certo che c'è un'intenzione di verità, questo è ovvio, ma ciò non significa che questa verità sia, insomma, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, la parola greca per verità, aletheia, cioè quella cosa che rimane dopo che hai tolto il velo, e anche tante filosofie di tipo induistico, eccetera, eccetera, tradiscono un essenzialismo che non è, che poteva essere in parte, soltanto in parte, ripeto, sia di Nietzsche, sia di forse di Freud che di Marx, ma non è vero. Quindi anche il modo in cui Foucault si dichiara diffidente, ecco che torniamo all'impostazione dell'archeologia, e anche il modo in cui Foucault si dimostra diffidente nei confronti di ciò che la cultura, le teorie, le filosofie hanno detto di se stesse, non è una diffidenza intesa a scoprire un qualche cosa, una sorta di verità nascosta che questi non avrebbero detto, una volta rimosso il campo dagli equivoci troviamo la verità. No, certo che no. E la grande innovazione di Foucault, io credo anche rispetto a Nietzsche, perché diciamo in Nietzsche questo percorso, per quello che ne ho sinora capito, c'è stato sino a metà, poi Nietzsche c'è sempre di più anche Nietzsche, poi vabbè, però purtroppo, purtroppo per Nietzsche c'è stato l'episodio della follia, per Foucault quello della morte, che ci hanno impedito, poi uno prima o poi è chiaro che muore, insomma, chissà cosa avrebbe fatto dopo, però voglio dire, Foucault, sia Nietzsche che Foucault sono morti, Foucault è morto, Nietzsche è impazzito in un momento in cui stava in una fase molto ascendente, vedremo la volta prossima, Ecce Homo, che è uno degli ultimi libri di Nietzsche, una sorta di autobiografia intellettuale, eccetera, in cui riprende le cose, ma insomma era... ha scritto l'Anticristo, ha scritto insomma gli ultimi libri, la genealogia è uno della genealogia della morale su cui ci fermeremo la volta prossima, è uno degli ultimi, insomma non proprio l'ultimo, ma insomma ecco, chissà cosa sarebbero, cioè voglio dire, c'era uno sviluppo ancora, c'era qualche cosa che avrebbe potuto essere portata avanti, non l'abbiamo fatta. Comunque nel caso di Foucault invece questa cosa è sempre più chiara, non è ancora chiarissima nell'archeologia. Nell'archeologia io mi pare di poter dire che c'è ancora qualche qua e là, qualche tentazione di universalismo, però è chiarissimo fino dall'archeologia che l'intento archeologico, dice in questo libro, poi vedremo meglio quello genealogico successivamente, non intendono esplicitare alcun nucleo di verità, nel senso di corrispondenza tra una certa diciamo, teoria e uno stato di fatto. Foucault vuole fare due cose che oggi, verso la fine di questa esposizione, spero saranno più chiare, perché le dice lui in un altro libro scritto poco dopo, in un altro scritto di vari anni posteriore all'archeologia, ma posteriore solo di un anno alla pubblicazione dell'archeologia, per esempio, che è un libro scritto nel 67 e pubblicato nel 69, quindi ci sono stati due anni solo lui e dicevo, qual è, mi sono fermato, bisogna ancora concludere il discorso, qual è la grande innovazione di Foucault da questo punto di vista? Come articola Foucault il suo sospetto? Non va alla ricerca delle verità nascoste, ma va alla ricerca delle verità superficiali, di quelle che sono già in superficie, di ciò che è stato già detto, semplicemente che la teoria nel suo costituirsi, autocostituirsi come prodotto di un soggetto, come aspirazione a una spiegazione inconfutabile e universale del mondo, ha ingarbugliato, ha impasticciato, ha nascosto qualche cosa o non ha nascosto, come dire, dell'altro, ma lo ha mostrato sotto una luce, diciamo, diversa. E quindi Foucault cerca in ciò che è stato detto, in ciò che è stato già detto, quindi non in ciò che è stato taciuto, in ciò che è già visibile, in ciò che è già alla superficie delle cose, come dire, due cose, e poi gli daremo dei nomi alla fine della, insomma, di oggi. Cerca due cose. Primo, cerca le condizioni, questa è una cosa che sembra assolutamente kantiana, le condizioni di possibilità. Che cosa ha reso possibile a quel medico vedere la malattia in quel modo, a quell'economista leggere, all'altro leggere, le condizioni di possibilità, attenzione, in un modo ben diverso però da come l'aveva cercato Kant nel secolo, sì, due secoli e mezzo prima. Foucault non ricerca le condizioni di esistenza universali, valide per ogni uomo, valide per ogni tempo, valide per ogni... Perché, cioè, allora, le condizioni, cioè, cosa di, insomma, Kant dice, la nostra sensibilità, com'è che facciamo a vedere le cose, perché abbiamo due grandi categorie nella nostra testa, lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo sono uguali per tutti, sono uguali per gli antichi egiziani, gli antichi greci, gli uomini primitivi, tutti quanti. Lo spazio e il tempo. Lo spazio è la geometria di Euclide, questa è la convinzione di Kant, no? Questo è l'a priori. Le condizioni di possibilità per Foucault non comprendono nessun a priori nel senso kantiano, nessuna condizione universale, nulla che valga sempre per l'eternità, per tutti gli esseri umani, eschimesi, lapponi, europei, eccetera, eccetera, pur che abbiano un minimo di raziocinio. Anzi, Foucault per certi versi si impegna a sabotare dall'interno ogni prospettiva che faccia conto, che tenti di notare cosa. Quindi, condizioni di possibilità che hanno a che fare con un qui e un ora determinato, con una particolare costellazione culturale, con un particolare momento storico, con un particolare modo di pensare, con quella che nell'opera, nella grande opera precedente a questa, aveva chiamato episteme. E qui mi devo forse, chi si va a riprendere le cose, io avevo azzardato, ho fatto un panorama un po' azzardato, avevo detto una cosa un po' azzardata, che nell'archeologia quello che Foucault chiama discorso in realtà è l'episteme, non è proprio così, insomma, perché l'episteme sta già ad un livello di elaborazione successivo. Il discorso che Foucault cerca di rintracciare nel Voglio Sapere, e che è questa, e che è in parte l'insieme delle condizioni di possibilità della nascita di un sapere, questo è quello che dice nell'ultima parte del libro che ancora non abbiamo preso in esame. Quindi questo è il primo, la prima démarche, il primo approccio che ha Foucault nei confronti. Quindi primo, cercare le condizioni di emergenza, ciò che ha reso possibile le idee, quindi non le idee nascoste, non quello che la gente ci ha taciuto, non le teorie, non le cose, non delle cose sepolte sino all'origine del mondo, come recita un famoso libro di René Guénon, che invece è uno che ha sempre cercato nella vita di scavare, di cercarle le cose nascoste, no? E quindi di vedere. No, certo che no. Quindi primo, le condizioni di esistenza. Secondo, gli attrezzi reali, gli strumenti concettuali reali, che non sempre sono quelli che l'artigiano dichiara di avere usato, che sono stati usati per costruire quelle nuove teorie, quelle episteme, per fare quel passo, quella... è piuttosto da questo secondo punto di vista che Foucault scopre poco a poco, perché non era chiarissimo secondo me nelle parole e nelle cose. Qua comincia ad essere invece molto più chiaro. Chiarisce, cioè gli si chiarisce probabilmente anche a lui in modo progressivo che cosa? È un'altra delle più importanti novità concettuali diciamo introdotte, come dire, da lui, e cioè che tutti gli strumenti che noi ci autorappresentiamo come dei quadri, come delle descrizioni del mondo, come delle teorie, come delle riflessioni sulla... In realtà non sono affatto questo, perché non è affatto questo lo strumento con il quale esse sono costruite, che è il linguaggio. Più volte vedremo, e se non avrò il tempo di dirvelo ve lo cercherete voi per conto vostro, ecco perché emerge così in questo libro così prepotentemente il termine pratiche. Emerge il termine pratiche accompagnato dall'aggettivo non discorsive, perché si parla di pratiche non discorsive, ma anche di pratiche discorsive. Le ricerche sono pratiche, il linguaggio è una pratica, nonostante la critica che abbiamo visto, mi sembra, vi ho detto due lezioni fa, la distanza che Foucault prende dall'incipiente scuola, dall'incipiente tendenza sugli speech acts nella linguistica anglosassone, in realtà è proprio lì, è proprio quello il punto. Dire è fare qualcosa. Non esiste una teoria. Voi credete di fare una ricerca, supponiamo, che ne so, sul concetto di open school, prendiamone una così, diciamo, sul concetto di open school e come è stato, come è emerso negli ultimi, noi pensiamo che sia, cioè, una ricerca teorica, io prendo quello che la gente ha scritto, non è una ricerca, no. È una pratica, implicitamente è una pratica, che il ricercatore ne sia cosciente o no, sta prendendo posizione. Allora, questa ve la leggo subito, perché ragazzi, ho 10 pagine di appunti, ma non abbiate paura, perché faccio sempre come faccio sempre di solito, parto dalla coda, cioè, quindi poi probabilmente recupererò una... Nelle ultime 15-20 pagine del libro Foucault fa la stessa cosa che ha fatto all'inizio della trilogia, cioè si inventa i suoi critici, quelli che lo accusano di strutturalismo, eccetera, eccetera, e poi gli fa dire le cose. Però sono critiche fedeli, perché effettivamente era quello che gli strutturalisti veri, ma soprattutto gli ermeneutici, i sartriani, insomma, gli hegeliani, i marxiani, i marxisti, insomma, tutti gli orfani del soggetto, della verità, tutte queste belle robe qua, gli facevano dire: tu vuoi distruggere queste robe, quindi, ma adesso ti becchiamo noi, e quindi poi lui risponde a questo. E quindi a un certo punto questi qua, insomma, gli dicono: beh, ma comunque questa tua archeologia non è una scienza, gli dicono questi immaginari critici, che gli danno del lei la lascia fluttuare con l'incerto statuto di una descrizione, indubbiamente un altro di quei discorsi che si vorrebbero spacciare per qualche disciplina appena abbozzata, il che procura ai loro autori il duplice vantaggio di non doverne fondare la scientificità esplicita e rigorosa e di proiettarla su una generalità futura che la liberi dalla casualità della sua nascita. Un altro di quei progetti che si scusano per quello che non sono, rimandando sempre a dopo l'essenziale, del loro compito, il momento della loro verifica e la definitiva sistemazione della loro coerenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma subito dopo aver finito il tratteggio del loro progetto, il sartriano così, ecco che scompaiono insieme coi loro autori. E il campo che avrebbero dovuto preparare rimane per sempre sterile. Che cosa gli risponde Foucault? Gli risponde: è esatto che non ho mai presentato l'archeologia come una scienza e neppure come i primi fondamenti di una scienza futura. E più che il progetto di un edificio da farsi, mi sono dedicato a fare il bilancio, anche col rischio di apportarvi molte correzioni, di ciò che avevo intrapreso in occasione di indagini concrete. La parola archeologia non ha valore di anticipazione, designa soltanto una delle linee d'avvio per l'analisi delle performance verbali. Specificazione di un livello, quello dell'enunciato e dell'archivio, quello che abbiamo visto nelle volte scorse, determinazione e illuminazione di un campo, le regolarità enunciative, le positività, introduzione di concetti come quelle di regole di formazione, di derivazione archeologica, di a priori storico. Ma in quasi tutte le sue dimensioni e su quasi tutti i suoi versanti l'impresa ha avuto rapporto con le scienze, con analisi di tipo scientifico o con teorie che rispondono a criteri di rigore. Anzitutto, questa impresa ha rapporto con delle scienze che si costituiscono e stabiliscono le loro norme nel sapere archeologicamente descritto. Per l'archeologia rappresentano altrettanto scienze oggetto, come hanno potuto esserlo già l'anatomia patologica, la filologia, l'economia politica, la biologia. Ha rapporto anche con delle forme scientifiche di analisi da cui si distingue sia per il livello, sia per il campo, sia per i metodi, e che essa fiancheggia secondo linee di divisione caratteristiche, rivolgendosi fra tutte le cose dette all'enunciato definito come funzione di realizzazione della performance verbale, analizzare ciò che si dice. Si distacca da una ricerca che abbia come campo privilegiato la competenza linguistica. Attenzione, negli stessi anni, anzi 10 anni prima, Chomsky aveva enunciato, stava cominciando a costruire una teoria del linguaggio che invece era esattamente l'opposto, perché è una teoria idealistica, perché è una teoria diciamo innatistica e quindi non può che essere idealistica, e quindi Chomsky ha sempre privilegiato la competenza linguistica sulla performance, sulla esecuzione. Invece Foucault, da buon empirista, da buon tipo terra terra, dice: ma no, dice, ma io la competenza, chissà cos'è la competenza, che ipotesi devo fare per stabilire in quale misteriosa cosa consiste la competenza verbale di un individuo. Cartesio poteva fare queste cose, e infatti non a caso Chomsky si è richiamato esplicitamente a Cartesio. Voglio rifondare una linguistica cartesiana, dice Chomsky, quindi voglio parlare di competenza. No, Foucault non vuole parlare di competenza. Mentre una descrizione di questo tipo, per definire l'accettabilità degli enunciati, costituisce un modello generatore, l'archeologia cerca invece di stabilire, per definire le condizioni della loro realizzazione, delle regole di formazione. Da ciò, tra questi due modi di analisi, quello della competenza e quello della performance, della realizzazione, attenzione, guardate, lui non lo cita, ma sono esattamente gli stessi termini di Chomsky, uguali identici, esattamente la dicotomia su cui Chomsky costruisce, stava già costruendo nel 67, era dal 57 che cominciava a fare queste cose. Allora, da ciò tra questi due modi di analisi, un certo numero di analogie, ma anche di differenze, in particolare per quanto concerne il possibile livello di formalizzazione. In ogni caso, per l'archeologia, e qui usa un altro termine chomskiano, sorry, ma in ogni caso per l'archeologia, una grammatica generativa ha la funzione di un'analisi connessa, La grammatica generativa, come la intende Foucault, quindi a livello della realizzazione, a livello della performance verbale, non della competenza, ha la funzione di un'analisi che è connessa con le performance verbali, ma è un'analisi, non un modello che gli sta dietro e che io gli applico, magari forzandolo pure con qualche carro armato, absit in uria verbo, di tipo concettuale, si intende dietro. Inoltre le descrizioni archeologiche nel loro svolgersi nei campi che attraversano si articolano su altre discipline, cercando di definire al di fuori di ogni riferimento a una soggettività psicologica o costitutiva le diverse posizioni di soggetto che gli enunciati possono implicare. L'archeologia cozza quindi contro una domanda che oggi si pone alla psicanalisi. Non so se è chiaro quello che lui dice. Io non è che non voglio parlare del soggetto, certo che a un certo punto il modo in cui le parole e gli enunciati sono combinati gli uni con gli altri fanno presupporre che un soggetto ci sia, c'è una funzione soggettiva, ma nella mia nell'analisi archeologica il soggetto è qualcosa che emerge dalla performance linguistica, non qualcosa che viene presupposto, non c'è prima il soggetto. Non esiste prima, non c'è la coscienza, non è la coscienza che genera le attività umane, le attività tutto quanto, no, sono le attività che si svolgono per conto loro, la coscienza è un prodotto, è una superfetazione, è qualcosa che viene dopo, è un'immagine che uno si fa di se stesso, è un discorso che uno rivolge a se stesso, su se stesso e sugli altri ovviamente, eccetera, eccetera, ma non c'è alcuna, non troverete per quanto vi sforziate mai alcuna ragione valida e precisa per poter presupporre l'esistenza di un qualche cosa chiamato coscienza, chiamato soggetto, di un nucleo stabile, descrivibile, dice ecco, questo è questo che genera il resto, questa è un'illusione, e questa roba l'aveva già detto Nietzsche 100 anni prima, cioè più o meno 80, 90, 70 anni prima. Quindi vedete, non è certo che c'è il soggetto, è una funzione variabile delle attività diciamo umane, di queste strane, adesso va bene, ma non ha ancora letto pratica, aspettate. Se colloco l'archeologia fra tanti altri discorsi che sono già costituiti, non è per farla beneficiare quasi per contagio e per contiguità di uno statuto che non sarebbe capace di darsi da sola. Non è per darle un posto definitivamente delineato in una costellazione immobile, ma per far sorgere insieme con l'archivio le formazioni discorsive, le positività, gli enunciati, le loro condizioni di formazione, un campo specifico. Campo che non ha costituito ancora l'oggetto di nessuna analisi, perlomeno in ciò che può avere di particolare e di irriducibile alle interpretazioni e alle formalizzazioni, ma del quale nulla dà garanzie anticipate nel punto di riferimento ancora rudimentale in cui mi trovo attualmente, che resterà stabile e autonomo. Oh là là! E accidenti! No, neanche l'archeologia rimarrà stabile e autonoma. Dopotutto potrebbe anche succedere che l'archeologia non faccia altro che svolgere la funzione di uno strumento che permetta di articolare in modo meno impreciso che nel passato l'analisi delle formazioni sociali e le descrizioni epistemologiche, o che permetta di collegare un'analisi delle posizioni del soggetto, tenete bene le posizioni, non il soggetto, le posizioni del soggetto, a una teoria della storia delle scienze, o che permetta di determinare il luogo di intersezione tra una teoria generale della produzione e un'analisi generativa degli enunciati. Alla fine si potrebbe scoprire che l'archeologia è il nome dato a una certa parte della congiuntura teorica attuale. Alla fine si potrebbe scoprire che l'archeologia è il nome dato a una certa parte della congiuntura teorica attuale. È tipico spesso di Foucault buttare delle bombe nel suo testo con la nonchalance di un maggiordomo britannico che arriva e dice: signora, il tè è servito. Questa è una bomba, perché dice: ragazzi, quello che c'è scritto qua non è mica detto, non pensate che debba essere una cosa che rimane per l'eternità e che quindi poi da ora in poi tutti, anche mettiamo chi voglia fare una ricerca sul concetto della patria di Open School, sempre per fare un esempio a caso, prende le robe che sono scritte in questo libro e fa, cioè, perché magari non è così, magari facciamo un'altra cosa, perché può darsi benissimo che questa serve solo per capire come era il dibattito diciamo teorico sulla teoria alla fine degli anni 60, siccome adesso siamo nel 2012, mi pare addirittura, sono passati un bel po' di anni, può essere che nel frattempo siano successe altre cose, che ci siano altri strumenti, altre... come dire, dice, non è neanche, anche il metodo può cambiare, anche le, no? Se non c'è il soggetto, se non c'è la coscienza, se non c'è la teoria, se non ci sono gli universali, se non c'è l'a priori, gli a posteriori, accidentaccio, cambiano, cioè alcuni di essi di volta in volta congiunturalmente assumono la funzione di a priori. Alcuni grumi, alcune gruppetti di cellule, alcune parole messe insieme in qualche modo, in qualche momento assumono la funzione di soggetto, certamente, ma Dio buono, è sempre stato così, è sempre sarà, non c'è nessuno scandalo, ma attenzione a non scambiare questa congiuntura teorica, questo particolare dibattito, questo scazzo tra Foucault e Sartre, questo gruppettino di cellule, questa teoria, questa visione del Buddha per il nucleo del mondo, per il nucleo. Ah, non c'è nessun nucleo, non ce n'è nucleo, c'è la successione delle performance, è l'unica cosa a cui l'essere umano ha come dire, accesso. Anche questo in parte l'aveva già detto Kant, solo che Kant aveva da un lato raddoppiato la cosa dicendo ci sarà un noumeno, cioè, invece Foucault dice non c'è nessuno uno, gliene frega nulla, e poi Kant ha detto però il fenomeno sì, variabile eccetera, però in realtà ragazzi con calma, lo conosciamo tutti, abbiamo un modo di metterci d'accordo Massimiliano e io fra le cose, perché ci mettiamo d'accordo, guarda, spazio, tempo, quante sono le categorie? 12, ne parliamo un attimo, ci mettiamo d'accordo, quantità, qualità, relazione, non so ormai la quarta, fate sempre figuracce su Kant, ci mettiamo d'accordo, no, non è così, ci mettiamo d'accordo congiunturalmente, ma i nostri figli non si metteranno d'accordo in stesso modo, o fra due mesi, fra un anno, neanche Massimiliano, io saremmo più d'accordo su ciò su cui eravamo d'accordo in quel giorno lì. Va bene, e poi si arrabbia, bla bla bla, eccetera, eccetera. Le positività che ho cercato di stabilire non si devono intendere, sempre Foucault che risponde ad altre persone, come un insieme di determinazioni che si impongono dall'esterno al pensiero degli uomini, degli individui, o che vi risiedono dentro e quasi preventivamente. Esse costituiscono piuttosto l'insieme delle condizioni secondo cui si esercita una pratica. Rileggo, l'insieme, le positività sono l'insieme delle condizioni secondo cui si esercita una pratica, secondo cui questa pratica dà luogo a degli enunciati parzialmente o totalmente nuovi, secondo cui infine essa può essere modificata. Più che di confini imposti all'iniziativa dei soggetti, gli scoccia un po' di dover spiegare le cose ai come dei bambini, però se i suoi interlocutori sono così, bisogna spiegare così. Più che di confini imposti all'iniziativa dei soggetti, si tratta del campo in cui essa si articola, la positività, senza costituirne il centro, delle regole che mette in opera, senza che le abbia inventate né formulate, delle relazioni che le servono da supporto senza che ne costituisca il risultato ultimo né il punto di convergenza. Si tratta di far apparire le pratiche discorsive nella loro complessità e nel loro spessore, far vedere che parlare significa fare qualcosa. Devo rileggere? Lo rileggo. Far vedere che parlare significa fare qualcosa. Qualcosa di diverso che esprimere quello che si pensa, tradurre quello che si sa, qualcosa di diverso anche che far funzionare le strutture di una lingua. Quindi anche gli strutturalisti che pensano che in realtà parlando noi, Chomsky che pensa che noi, parlando applichiamo le regole ipotetiche di questa grammatica, di questa universal grammar che in 30 anni di lavoro né lui né nessun chomskiano ha mai trovato mezza di queste regolette muffe di sta grammatica universale, le uniche che hanno, credo, sono delle generalizzazioni dell'inglese che vanno bene solo per le lingue indoeuropee, ma saranno difficoltà di essere applicate alle altre cose, quindi no. tradurre USA, quindi qualcosa di diverso anche dal far funzionare le strutture di una lingua, far vedere che aggiungere un far vedere che aggiungere un enunciato a una serie preesistente di enunciati significa fare un gesto complicato e costoso che implica delle condizioni e non soltanto una situazione, un contesto o dei motivi, e che comporta delle regole diverse dalle regole logistiche e linguistiche di costruzione. Far vedere che un cambiamento nell'ordine del discorso non presuppone delle idee nuove, un po' di invenzione e di creatività, una mentalità diversa, ma delle trasformazioni in una pratica, eventualmente in quelle che le sono vicine e nella loro articolazione comune. Io non ho negato, e me ne guardo bene, la possibilità di cambiare il discorso. Non ho tolto il diritto esclusivo e istantaneo alla sovranità del soggetto. È una cosa lega tutta questa, perché è troppo bella. E a mia volta, per finire, vorrei farvi una domanda. Che idea vi fate voi del cambiamento? Diciamo pure della rivoluzione. Perlomeno nell'ordine scientifico e nel campo dei discorsi, se vi legate ai temi del senso, del progetto, dell'origine e del ritorno, del soggetto costitutivo, insomma tutta la tematica che garantisce nella storia la presenza universale del Logos. Quale possibilità gli concedete al cambiamento, alla rivoluzione? Se l'analizzate secondo le metafore dinamiche, biologiche, evoluzionistiche in cui generalmente si dissolve il difficile e specifico problema della mutazione storica. Più esattamente, quale statuto politico potete dare al discorso se non vedete in lui altro che una tenue trasparenza che brilla per un istante sul confine delle cose e dei pensieri? La pratica del discorso rivoluzionario e del discorso scientifico, la pratica del discorso rivoluzionario e del discorso scientifico in Europa, che ha ormai 200 anni, non vi ha liberato dall'idea che le parole siano vento, un bisbiglio esteriore, un fruscio di ali che si riesce a malapena a percepire nella serietà della storia? O bisogna pensare che per rifiutare questa lezione vi ostiniate a misconoscere nella loro particolare esistenza le pratiche discorsive e che vogliate tenere in piedi contro di esse una storia dello spirito, delle conoscenze della ragione, delle idee o delle opinioni? Che paura è questa che vi fa rispondere in termini di coscienza quando vi si parla di una pratica, delle sue condizioni, delle sue regole, delle sue trasformazioni storiche? Che paura è questa che vi fa cercare al di là di tutti i confini, le fratture, le scosse, le scansioni, il grande destino storico trascendentale dell'Occidente? Il grande destino storico trascendentale dell'Occidente. Penso che a questa domanda non ci possa essere altra risposta che quella politica. Devo rileggere? Rileggo. Penso che a questa domanda non ci possa essere altra risposta che quella politica. Lasciamola in sospeso per adesso. Può darsi che presto la dobbiamo riprendere e in altro tono. E come la riprenderà e in altro tono ve lo dirò nel prosieguo di queste lezioni. Ah, ma c'è ancora parecchio tempo. Bene, meglio. Allora, se sono riuscito, spero, a farvi capire non quello che dice Foucault, ma il modo in cui io ho capito Foucault, che è l'unica cosa che io posso dirvi, no? Non posso dirvi altro naturalmente. Allora, voi certamente potete, siete in diritto, se volete, di criticare l'architettura di questo libro e il fatto che per arrivare ad incazzarsi alla fine con gli interlocutori, perché si è incazzato, non so se è chiaro, ma è incazzato quando con gli intellettuali francesi, con Evi, insomma, con i sartriani, con i fenomenologi fedeli, con i marxisti, però poi ci parlava con i marxisti, poi dopo, cioè, in continuazione, non faceva altro che questo, parlava con i con la peggiore specie di marxisti che siano mai esistiti, cioè i maoisti. Ci ha fatto dei gruppi insieme, delle cose, non è che uno che. Perché a un certo punto voglio anche fare la politica nel 68 stava a Tunisi quando ci fu l'occupazione della Sorbona, arrivò dopo, insomma, quindi sempre stato un po' così, un po'. Però insomma, voleva farla, infatti poi l'ha fatta a modo suo, in modo serissimo e insomma, diciamo, rischiandoci. E lui dice, ma perché per dirci queste cose hai dovuto costruire questo armamentario così? E allora, io credo che qua ci sia, allora, obiettivamente, se voi, adesso io esco e ancora sarò immerso per un tot in una full immersion con Nietzsche, quindi sto leggendo Nietzsche, questa selezione qua era già preparata da prima di Natale, ma naturalmente la sto facendo in modo diversissimo da come l'ho preparata, ma mi capita sempre così. Allora, certo, lo stile di Nietzsche, cioè Nietzsche ha un altro modo, Nietzsche fa tutte o quasi tutte, insomma, no, certo, le prime no, la nascita della tragedia no, le inattuali neanche, ma insomma, da umano, troppo umano in poi, tutta la sua opera è sempre più, mano a mano che ci si inoltra e anche lui si avvicina, è sempre più, da un lato, diciamo, l'aforisma, denso, quindi una frase o anche una pagina e mezzo a volte, insomma, però un pensiero concluso, che ma come si fa a capire? Infatti è difficile, parlavamo con Amos prima, ricostruire, e insomma, Foucault un po' questo stile, diciamo, ce l'ha, però non c'è lo stile di Nietzsche. Diceva, ha scritto Paul Venn, il suo amico, in un libro che forse vi ho già, diciamo, citato, la cosa è stata ripresa, insomma, che Foucault era un samurai, no? Allora, non so io che idea vi fate voi del samurai, se c'è qualcuno che conosce la cultura giapponese meglio di me, sicuramente avrà un'idea più precisa di me di cos'è un samurai, però io dai pochi film con Toshiro Mifune che ho visto, di Kurosawa principalmente, eccetera, l'idea che mi sono fatto, e cerco di capire in che senso, allora, diciamo, Venn ha scritto questa cosa per dire semplicemente Foucault era tagliantissimo, cioè se decideva non viene più tagliente di Sartre, perché Sartre vede, insomma, come adesso poi non è l'unica cosa, insomma, possibile, però quando uno per fare polemica con un altro si trova costretto a dire Foucault è l'ultimo bastione della borghesia, insomma, cioè, offende in maniera anche un po' gratuita, insomma, o comunque. Invece Foucault non offendeva, però tagliava, cioè quando parlava tagliava. Ma io come dire, l'immagine, la figurazione che mi sono fatto io del perché si può definire, e che funziona anche con i pochi video che ho visto di Foucault, perché ho visto più video di Deleuze che fa lezione, che fa dibattiti, che non di Foucault. Ma da quel poco che ho visto, mettendolo insieme con i film di Kurosawa, direi così. Il samurai è quel signore così distinto e così gentile, con questa cintura così ben disposta intorno alla vita, con i capelli così pettinati, con l'aria così seria e dura, ma niente affatto pericolosa, che all'improvviso, se gli dite una mezza cosa, se gli dite qualcosa, dice, senza che voi riusciate a rendervi conto, ha già estratto la katana dal fodero e ha già tagliato la testa dell'avversario, così zacchete. Nietzsche non era un samurai. Nietzsche era come i Blues Brothers, no, nel senso che era in missione permanente, non per conto di Dio, ma per conto dell'antidio, dell'anticristo, ma in missione permanente, cioè si incazzava, cioè era sempre incazzato, voi insomma leggete Nietzsche, no, anche Nietzsche poi ha le sue cose più tranquille, più calme, insomma, però voglio dire, a un certo punto Nietzsche decide che deve abbandonare, che non gliene frega più, che non gli interessa più l'argomentazione tutta bella partita, eccetera, ne ha fatto già troppo da giovane di Schopenhauer, insomma, diciamo che lo stile beneducato di Schopenhauer, come la musica beneducata di Wagner, che so che molti di voi non pensano che sia una musica beneducata, ma e di cui Nietzsche, diciamo, in gioventù fu fortemente appassionato, poi si staccò, insomma, Nietzsche matura quando si stacca da Schopenhauer da un lato e da Wagner dall'altro. E quindi a quel punto dice: no, è come se Nietzsche sentisse di avere poco tempo, e forse aveva davvero poco tempo, e quindi doveva dire il maggior numero di cose possibili nel modo più esplicito, più chiaro. Poi aveva tante cose da dire, quindi ne dice tante e scrive, diciamo, tanti libri. Anche Foucault forse aveva poco tempo, ma nelle opere di Foucault non si capisce mai che Foucault la prende molto alla lontana. Nella più gran parte della sua opera la katana la tiene nel fodero, le pieghe dell'abito sono impeccabili, l'argomentazione è liscia, va avanti bene una cosa e l'altra, a volte è un po' ardua perché affronta problemi ardui, ma poi all'improvviso, certo, come prima, non so adesso se l'ho interpretata male, ma insomma, uno che dice: ah, guardate che en passant volevo dirvi che questa roba forse sarà semplicemente il documento di un dibattito per la, diciamo, teorico della fine degli anni 70, non di più, non per la, cioè ha sempre questo, insomma. E poi farò un altro paragone ancora, e che spiega perché da un certo punto di vista diciamo qualcuno abbia voluto scrivere Il secolo sarà delesiano e soltanto da poco si comincia a ipotizzare che il secolo sia stato invece foucaultiano, e perché Deleuze e Guattari, cioè Deleuze ha avuto così tanto spazio e così tanta audience presso gli studenti rivoluzionari degli anni 70, dei tardi anni 70, della metà degli anni 70, e Foucault invece meno, così poco. Deleuze aveva già fatto i suoi compiti. Deleuze esordisce con un bellissimo libro di Nietzsche che mi è servito moltissimo per la lezione che farò la settimana prossima, Nietzsche e la filosofia, scritto nel 1970. Pubblicato nel 1962, quindi seguiamoci. Poi scrive un libro su Spinoza, poi scrive un libro un po' più tardi su Leibniz, no? È un apprendistato, cioè è un misurarsi con la filosofia ufficiale, con la storia della filosofia, che dentro il percorso di Deleuze continua in modo esplicito per tutta la vita. Se Deleuze sente il bisogno di scrivere La piega, che pubblica non mi ricordo più in che anno, insomma, comunque non negli anni 60, insomma, credo, penso negli anni 80, se non vado errato, quindi molto tardi, hanno già scritto un sacco di cose, e si deve votare con Leibniz. Probabilmente anche Deleuze per certi versi ha delle caratteristiche simili a quelle di, come dire, Foucault, però voglio dire, queste cose Foucault le ha fatte quando era molto giovane, le ha fatte con Kant, principalmente solo con Kant, perché ha tradotto in, diciamo, francese e curato una edizione critica dell'Antropologia di Kant, e poi ci ha fatto un lungo salto davanti che era praticamente la sua seconda tesi di dottorato. Quella più importante era La storia della follia, era il nucleo della storia della follia. Dopodiché ha smesso, cioè, per trovare un altro testo di Foucault su Nietzsche, sono andato a scartabellare quasi tutti i Dite Tecri, perché uno che non ha più scritto libri sui, come dire, filosofi, no? Allora, da un certo punto di vista, come dire, insomma, Foucault, così, come dire, la vedo io, ha abbandonato i terreni tradizionali della filosofia in modo più diciamo deciso di Deleuze. Non che Deleuze, è ovvio che anche Deleuze aveva, che anche il discorso deleuziano è un discorso di critica alla base delle ipotesi filosofiche tradizionali, soltanto che Deleuze fa questo lavoro, così pare a me, senza tagliare totalmente i ponti con questo ambiente, mentre Foucault fa invece così, cioè Foucault taglia i ponti. Tagliando i ponti, come dire, in qualche modo si sente in dovere, però, siccome non fa più dei grossi discorsi, non si riferisce più in maniera esplicita ad altre teorie filosofiche o ad altre cose, però in qualche modo vuole farci vedere che, adesso la dico così, poi non so, può darsi che sia pure una solenne castroneria, ma che in qualche modo la sua proposta filosofica, la sua proposta teorica è l'unico modo per salvare in qualche maniera la tradizione filosofica in quello che c'è da salvare, in quello che si può salvare, in quello che è utile salvare, in quello che invece sono un sacco di altre cose che forse ci conviene buttarle. Per questo tante volte in tante interviste Foucault dice: ma io non sono un filosofo, lo dice in modo di dire tante volte, non sono un filosofo, non si vuole definire filosofo. Io credo che lo sia di fatto, è impossibile pensare che come dire non lo sia, e poi ha insegnato al Collège de France, insegna una materia che si chiama si chiamava storia dei sistemi di pensiero, a cui hanno cambiato il nome perché era la stessa cattedra di Hippolyte, gliela danno dopo che muore Hippolyte, però Hippolyte non aveva più storia della, non era chiaramente storia dei sistemi di pensiero, insomma. È chiaro che stava dentro questo, come dire, sistema pure lui, ma gli oggetti della sua, diciamo, ricerca, siccome erano, allora, detto in modo più, non lo so, l'ho fatta lunga, potevo farla prima e sì, sono capito meglio se come dire, dicevo questa frase. Siccome gli oggetti della sua ricerca sono, di Michel Foucault, sono quanto di meno filosofico ci sia, sono i modi di pensare dei medici, sono le teorie mediche, sono le pratiche mediche, sono le pratiche psichiatriche, sono le teorie e le pratiche dello Stato, sono queste robe qua, non è la filosofia, Non ha scritto un libro, non scrive libri sul problema del soggetto o sul problema della verità, c'è questo problema nei suoi libri, ma i suoi libri parlano di nascita della biopolitica, volontà di sapere, ruolo del sesso e delle pratiche sessuali e del discorso sulla sessualità dall'antichità greca fino ad oggi, insomma, sono queste robe qua, non è, in qualche modo tutta la filosoficità, virgolette, di Foucault si sposta sul piano del metodo, chiamiamolo, del ecco perché, e lui sente in qualche maniera di doverlo fare tutto questo percorso. Era impossibile, secondo me, che lui scrivesse Sorvegliare e punire e la volontà di sapere e facesse i corsi bellissimi che ha fatto per tutta la sua vita al Collège de France senza essere passato per questo calvario, accidenti, che è un calvario per lui, probabilmente è stato per lui e lo è sicuramente per il lettore. Lo è stato anche per me, ragazzi, tre volte ho dovuto leggerlo prima di, su questo sapete che non mi pongo su un piano diverso dal vostro, cioè la fatica che fate voi l'ho fatta io e la sto facendo ancora adesso, semmai è grave che la faccio, che sono così vecchio, che sono tonto, ma tonto, perché sennò probabilmente farei prima, insomma, fare altre cose. Ecco quindi perché, cioè, c'è una ragione, non è un vezzo, insomma, è una necessità intrinseca del maturare del discorso foucaultiano, quello di, come dire, la dico in un altro modo ancora, vediamo se così va un po' meglio di prima, è come se Foucault volesse dire: non mi rompete i coglioni, non devo arrivare al modo di esporre le cose rivoluzionarie, eversive, totalmente nuove che sto dicendo, in modo che non ci siano dubbi possibili e che soltanto i cretini, certo, quelli ci sono sempre, tu tutti voi lo sapete, è qualcosa di cui l'umanità non si priva mai, non si è mai privata nella sua storia e credo mai se ne priverà. Quelli va bene, dice, ma con le persone che hanno riuscito, no, dice, in modo che nessuno possa dire che non ho fatto tutto, che non ho seguito tutte le strade, che ci si arriva così, da qualsiasi parte si vada, si arriva sempre lì, si arriva a questa cosa. Allora, adesso volevo fare tutta una parte sul fatto che Dreyfus e Rabino parlano di fallimento metodologico dell'archeologia, che è una roba che non mi soddisfa tantissimo a me, ma insomma. Allora, voglio dire, ragazzi, i titoli dei capitoli, l'ultima parte ve la siete letta, ve la comunque leggerete: archeologia e storia delle idee. L'archeologia non è la storia delle idee. Questa storia di idee qualcosa, ma tu se voi, diciamo, riuscite a afferrare, ad attaccarvi a questo bandolo che vi ho dato, secondo me tutto quello, cioè si legge più facile, scorre via più liscio. La teoria non è la storia di idee. Secondo capitolo, l'originale e il regolare. L'originalità ha come dire, le sue regole di emergenza che non sono quelle delle teorie nuove. Delle novità, delle cose che sono altre. Adesso lo faccio solo per punto, mi sono mangiato tutto il tempo a fare degli show, me ne rendo conto. E quindi, le contraddizioni, questo è un grande capitolo, è un grande pezzo della lotta del corpo a corpo mortale di Foucault contro la dialettica. Le contraddizioni, non ci sono le contraddizioni, che poi alla fine si risolvono tutte, perché arriva sempre lo spirito assoluto, dice, ah, ma questo era negato, però adesso te lo faccio vedere io, che se ci cambiamo di cosa non è più negato, e che la negazione diventa affermazione, tutte queste robe qua, hegeliane. I fatti comparativi, il cambiamento e le trasformazioni, scienza e sapere. Su questo due paroline sole, perché mi sembra che sia, se non la prima volta, ma uno dei momenti più chiari in cui emerge il concetto di sapere per Foucault. Che cos'è il sapere? Il sapere non sono le teorie, non è la scienza, non è l'episteme. E infatti lui, forse in maniera un po', devo dire, se qualche critica si può fare, anche Foucault facciamola, in maniera un po' meccanica, dice, ci sono le soglie, la soglia di positività, la soglia di epistemologizzazione, la soglia di scientificità, la soglia di formalizzazione. Certo, poi dice lui, lo dice pure lui, che probabilmente nessuno dei discorsi, alcune scienze hanno saltato alcune di queste fasi, insomma non è così, però la cosa importante, insomma, è le positività. Dice, a un certo punto dice, analizzare delle positività significa mostrare in base a quali regole una pratica discorsiva possa formare dei gruppi di oggetti, degli insiemi di enunciazioni, dei complessi di concetti, delle serie di scelte, diciamo, teoriche. Quindi le positività sono questa sorta di, sono un ibrido anche loro, diciamo, sono una sorta di grumo che si forma all'interno dei, diciamo, discorsi, quindi sono costituite da un insieme di enunciati particolari che, come dire, lui non dice mai che costituiscono, ma che segnano, illuminano, indicano le condizioni di emergenza di una scienza. Detto in modo un po' meccanicistico, quindi una scienza, prima di essere scienza, deve essere un sapere, o si deve fondare su qualche sapere finitimo, su qualche sapere che sta lì vicino e che poi la scienza in quanto scienza trasformerà, se poi si formalizza non ne parlo neanche. Ci sono delle cose anche molto interessanti che poi vi troverete sulla matematica, ma adesso non ho il tempo di dirvi. Questi insiemi di elementi regolarmente formati da una pratica discorsiva, regolarmente, quindi formati secondo le regole delle pratiche discorsive, da una pratica discorsiva, è indispensabile alla costituzione di una scienza, benché non necessariamente destinati a darle vita, si può chiamare sapere. Questa è la definizione che dà Foucault di sapere, e alla quale diciamo rimarrà rimane un problema sul quale Dreyfus e Rabinow hanno un po' di, diciamo, ragione, però, ed è questo. Dreyfus e Rabinow, stai registrando sfortuna che tu, perché io non mi sono dimenticato di mettere il mio, vabbè, meglio. A un certo punto Dreyfus e Rabinow fanno una serie di paragoni, di paralleli tra il discorso di Foucault e qualcosa che un lettore distratto potrebbe dire, ma che c'entra? Che sono, diciamo, le teorie, le epistemologie, le filosofie della scienza post-popperiane. Lui prende principalmente Kuhn, come sto guardando te, perché però non mi guardando te mi è uscito Kuhn, vedi un po' che roba. Quindi Kuhn, dice, ma cosa c'entra Kuhn? Effettivamente c'entra, perché più volte troverete in qualche passaggio dell'archeologia enunciata questi discorsi sono pratiche, ok, però pratiche discorsive, quindi è un qualche cosa, è una pratica linguistica, quindi è qualche cosa che si fa parlando. Che rapporto c'è tra le pratiche discorsive e le pratiche non discorsive? Ora, effettivamente, l'epistemologia, chiamiamola strutturalista, si potrebbe chiamare quasi, o comunque quella post-popperiana, quella di Kuhn, ma in parte anche quella di Feyerabend in modo molto più, diciamo, radicale, cioè le teorie della scienza, il modo in cui Kuhn ci spiega che nascono e muoiono le teorie, diciamo, scientifiche, da un certo punto di vista hanno una risposta a questa, come dire, domanda. Cioè Kuhn dichiara apertamente la priorità delle pratiche non discorsive su quelle discorsive. Da un altro punto di vista, anche il marxismo ha una risposta a questa domanda, e sia pure in maniera diversa da Kuhn, anche il marxismo ci direbbe che le pratiche non discorsive hanno la priorità, anzi addirittura probabilmente sono l'origine, la causa delle cose. Nella vulgata più, diciamo, terribile, cioè quella di un marxista non particolarmente brillantissimo come fu il presidente Mao, le idee giuste non nascono dal cielo, nascono dalla canna del fucile, che era il modo che aveva Mao Zedong di pensare alla pratica. E ognuno dal suo, insomma. Foucault non è così drastico. Allora, secondo me Dreyfus e Rabinow ci ricamano un po' troppo sopra, però il problema c'è. È una svista di Foucault? È il fatto che non aveva le idee chiare lui davvero su questa cosa? Allora, io penso che al fondo, non so adesso, ma diciamo, c'è una logica in questo non rispondere di Foucault su questo tema. E il non rispondere su questo tema deriva proprio dalla serietà con la quale Foucault prende e affronta i temi del linguaggio. Dire che sono le pratiche non discorsive quelle che guidano, quelle che sono determinanti, che le pratiche discorsive dipendono da quelle non discorsive, che cosa significa? Pensateci bene, se non in fondo dichiarare che il linguaggio è la conseguenza di qualche altro processo più fondamentale di quello linguistico, di pensiero, se sono idealista, di relazioni, rapporti, pratiche, se sono materialista, insomma, ma che il linguaggio arriva dopo. Il linguaggio arriva dopo che qualcosa di importante è già successo. La formazione economico-sociale si è già instaurata, i rapporti di forza sono stati già decisi, poi il linguaggio certamente arricchisce, arriva, ma non è linguistico. Foucault, a Foucault non piace questa cosa, io credo giustamente. Foucault si rifiuta di considerare le pratiche discorsive come delle pratiche accessorie, diciamo in ultima analisi siamo un po' estremisti, estremizziamo un po' decorative, diciamo, quelle mettono la ciliegina, ma in realtà l'essenziale della torta è ben diverso, diciamo. E ci sono tante teorie sul linguaggio anche oggi che in fondo si rifiutano di vedere questa centralità, che invece è una centralità ontica, se non vogliamo dire ontologica, del linguaggio nell'essere umano. Prendere sul serio il linguaggio implica considerare le pratiche discorsive a parità almeno con gli altri tipi di pratiche, con le pratiche non discorsive, e semmai vedere di fare una traslazione, diciamo, se devo rovesciare qualche cosa sono i rapporti fra la teoria e la pratica che devo rovesciare, non tanto quelli fra il linguaggio e il resto, ma sulla teoria e la pratica, sul piano del linguaggio li abbiamo già rovesciati, perché abbiamo già deciso che il linguaggio non è un qualche cosa di sovrapposto che viene dopo le pratiche, è una pratica esso stesso. Dire qualcosa è fare qualcosa, è voler fare qualcosa, è farlo. E quindi non ha... se io ho affermato questo, che senso ha stare a fare una gerarchia, dico io, tra le pratiche e dire no, ma ci sono quelle non discorsive che comandano quelle discorsive. La formazione del sapere e del discorso è... Allora, credo insomma che una prima possibile risposta alle domande con le quali abbiamo cominciato due volte fa questa sezione del corso, ma che cos'è l'archeologia, che cos'è un discorso, più o meno ce lo siamo detti. L'archeologia designa, rileggiamo quello che vi ho detto prima, delle linee di avvio per l'analisi delle performance verbali, quindi è un modo per cercare di capire e di stabilire che valore hanno, che cosa significano, che relazioni nuove comportano certe performance verbali. Il discorso è quel particolare insieme di performance verbali nel quale si pongono insieme, nel quale si evidenziano insieme le condizioni di possibilità e l'emergenza e diciamo l'emergere delle pratiche discorsive. Attenzione, certo che è circolare il, come dire, discorso, ma non si può dare altra definizione possibile se non... E a me pare che questo rimando finale che vi ha fatto Foucault, che vi ho fatto io leggendo Foucault, alla come dire, politica, sia una delle, diciamo, risposte possibili. Ma volevo chiudere, e il tempo c'è tutto, lo possiamo fare anche bene, come dire, ragguagliandovi su un altro, tra non confliggente ma complementare, comunque una risposta un po' diversa alla stessa domanda che ci stiamo ponendo adesso, ma che cos'è il discorso in fin dei conti, no? E questa un'altra possibile risposta si trova in questo, invece, in questa operina che è l'ordine del discorso, che è la, diciamo, lezione inaugurale di Foucault al Collège de France, letta il 2 dicembre del 1970 e pubblicata, se non vado errato, l'anno dopo, e poi da allora pubblicata e ripubblicata sempre. Allora, l'ordine del discorso è un libro, una cosina, insomma, chiaramente retorica, insomma, funziona, sono le robe che non ci piacerebbe neanche di leggere tanto in Foucault, ma insomma si può capire perché comincia dicendo: nel discorso che devo oggi tenere in quelli che mi occorrerà, avrei voluto potermi insinuare surrettiziamente, più che prendere la parola avrei voluto esserne avvolto e portato ben oltre ogni inizio possibile. Mi sarebbe piaciuto accorgermi che al momento di parlare una voce senza nome mi precedeva da tempo, mi sarebbe allora bastato concatenare, proseguire le frasi, ripormi senza che si prestasse attenzione nei suoi interstizi, come se mi avesse fatto segno, restando per un attimo sospesa. Inizi non ce ne sarebbero dunque, invece di essere colui donde viene il discorso, secondo il capriccio del suo svolgimento, sarei piuttosto una sottile lacuna, il punto della sua scomparsa possibile. Qui tutti i sostenitori del Foucault strutturalista, probabilmente a Levo, dice che è strutturalista, dice che non c'è il soggetto, eccetera. In realtà la cosa è molto più, è molto più banale, perché in realtà non è una cosa di me, cioè c'è questa presenza, era chiaro per tutti quelli che stavano lì. Questa presenza che lo precede ha un nome, il riferimento è ad Ippolita, appunto, e lui però doveva questo suo ora Ippolita è stata una figura importante per lui, è stata probabilmente quello che gli ha consentito di fare i conti con Hegel sino in fondo, perché Ippolita era uno dei lettori ed è stato praticamente, diciamo, per la Francia era la mediazione sua, era la traduzione della fenomenologia e suo anche il poderoso commento alla fenomenologia di Ippolita, sul quale anch'io studiai per interposta persona, insomma non dovevo fare l'esame io, ma studiai questo testo di Ippolita quando ero giovane, quindi non mi ricordo nulla, non si capì nulla allora, figuriamoci adesso. E Ippolita, beh, questo va bene, però in realtà dietro a questa cosa, però c'è un modo abbastanza originale di perché qua in modo più chiaro di quello che ha fatto nell'archeologia, se non nelle pagine, come dire, finali, Foucault intanto pone il problema del soggetto nel modo più chiaro, dicendo chiaramente che cosa intende farne di questa ipotesi, cioè che intende terremotarla, che intende destabilizzarla, che non intende lasciare spazio a questa, e poi soprattutto comincia con un tema che poi svilupperà negli anni successivi, che è quello del controllo del discorso, perché l'inizio vero della cosa è: ecco l'ipotesi che vorrei avanzare questa sera per fissare il luogo, forse il molto provvisorio teatro, del lavoro che faccio. Suppongo che in ogni società la produzione del discorso sia insieme controllata, selezionata, organizzata e distribuita mediante un certo numero di procedure che hanno la funzione di scongiurarne i poteri e i pericoli, di padroneggiarne l'evento aleatorio, di schivarne la pesante, temibile materialità. Ora, questa cosa, secondo me, nell'archeologia non emerge bene come emerge qua, perché accidenti, sempre senza parere, ma Foucault ci dice che certo che c'è tutto un armamentario che controlla, seziona e indirizza il discorso. Perché c'è questo armamentario? Perché il discorso in quanto tale, secondo lui, avrebbe dei poteri, e per l'organizzazione, per coloro che organizzano il controllo, presenterebbe dei pericoli. Sarebbe caratterizzato da una aleatorietà, questo c'è già nell'archeologia del sapere, certo, da una casualità, da una il discorso non è il prodotto di nessun progetto, né esplicito né implicito né intelligent design, nessuna di queste cazzate che circolano oggi anche in maniera spulorata nel dibattito filosofico, nel dibattito giornalistico contemporaneo. Niente, non c'è nessun progetto, è il caso, è l'evento è casuale, è qualcosa che si produce, qualcosa che emerge, è la fluttuazione quantistica, è l'atomo di idrogeno, è il quark che viene fuori in una zona di spazio in cui il quark non ci deve essere. E rappresenta una pesante, temibile materialità. Attenzione, dice del discorso, eh? Non dice delle teorie, non dice delle cose già formate. Quindi, in qualche maniera, questa è una dimensione che io credo Foucault non ha mai esplicitato bene, cioè è sempre sotto traccia, ma non è mai detta in modo chiaro. Io la dico così, sono ingenuo e sono un ragazzo, non sono molto sofisticato, quindi mi devo dire le cose per come le posso capire io. Io questa cosa la capisco in questo modo: nello stadio di formazione, cioè quello nel quale il discorso è ancora più fortemente legato alla sua dimensione pratica, quindi nel momento in cui il discorso, la parola, il linguaggio non ha ancora del tutto totalmente reciso o mistificato i suoi legami con la pratica, cioè con quello che si fa, il discorso è quello che ha queste caratteristiche. Quindi intanto è più facile capire che è un evento casuale, è più facile capire che è un evento, è più facile capire che è qualche, che è qualcosa che cambia, che è qualcosa che ha creato una piccola faglia, una piccola discontinuità, che non è mai qualcosa che lascia le cose diciamo come stavano quando emerge un discorso, che quindi ha del potere, ha una potenza nel senso di Spinoza e nel senso di Nietzsche, cioè ha la potenzialità, ha la capacità di produrre degli effetti, che forse la teoria non ha sempre o che ha in modo diciamo diverso, che quindi questo rappresenta un pericolo nei confronti invece di chi gestisce le procedure di distribuzione e di circolazione dei discorsi, perché le procedure di circolazione dei discorsi sono fatte in modo che devono nascondere questa caratteristica del discorso, no? Che devono impedirgli di sviluppare, che devono diminuire la sua potenza, se non totalmente diciamo distruggerla, ma devono almeno diminuirla, devono imbrigliarla, devono incanalarla. Ma il discorso ha una pesante e temibile materialità. Questa è la stessa cosa che dire dicendo qualcosa si fa, non si dice qualcosa se non si fa qualcosa contemporaneamente. E allora, e siccome lui, poi adesso non vi salto il pezzo in cui spiega che ci sono varie procedure di queste procedure di controllo, diciamo, del discorso, che sono, dice lui, procedure di esclusione, procedure, parla della follia, eccetera eccetera, procedure di di controllo dell'evento, insomma, di controllo del carattere eventuale, e terzo luogo le procedure di rarefazione, insomma, delle regole. Dice, non si tratta questa volta di padroneggiare i poteri che si portano con sé, ma di scongiurare gli accidenti della loro apparizione. Si tratta di determinare le condizioni della loro messa in opera, di imporre agli individui che li tengono un certo numero di regole e di non permettere così a tutti di accedervi. Rarefazione quindi non solo dell'enunciato, come aveva già detto la cosa, ma dei soggetti parlanti. Nessuno entrerà nell'ordine del discorso se non soddisfa certe esigenze o se non è d'acchito qualificato per farlo. E quindi allora lui si chiede se certi temi della filosofia non siano in realtà collegabili con queste cose del, diciamo, discorso, e dice quindi, a un certo punto poi conclude metà del discorso così, è come se degli interdetti, degli sbarramenti, delle soglie, dei limiti fossero stati disposti in modo da padroneggiare almeno in parte la grande proliferazione del discorso, in modo da alleggerire la sua ricchezza della parte più dannosa e da organizzare il suo disordine secondo figure che evitano quello che vi è di più incontrollabile. È come se si fossero voluti cancellare sinanco i segni della sua irruzione nei giochi del pensiero e della lingua. C'è sicuramente nella nostra società, e immagino in tutte le altre, per quanto con un profilo e scansioni diverse, una profonda logofobia, una sorta di sordo timore contro questi eventi, contro questa massa di cose dette, contro il sorgere di tutti questi enunciati, contro tutto ciò che ci può essere in questo di violento, di discontinuo, di battagliero, di disordinato e di periglioso, contro questo brusio incessante e confuso del discorso. Quando vari anni più tardi scriverà La volontà di sapere, con grande scandalo di molta gente, lui dirà: c'è una proliferazione, non è vero che il sesso è represso, che non ce ne fanno parlare, ce ne fanno parlare sin troppo, c'è una proliferazione, e però come viene controllata questa proliferazione? E se si vuole, non dico deporre questo timore, bensì analizzarlo nelle sue condizioni, nel suo gioco e nei suoi effetti, occorre, credo, risolversi a tre decisioni, alle quali il nostro pensiero oggi resiste un poco, e che corrispondono ai gruppi di funzioni che ho testé evocato. Rimettere in questione la nostra volontà di verità, restituire al discorso il suo carattere di evento, togliere via infine la sovranità del significante. Queste sono le tre linee, se ci pensate bene, lungo le quali, come vedremo anche successivamente, si è articolata da sempre da un certo punto in poi la battaglia di Foucault contro il soggetto come sostanza. Rimettere in questione la nostra volontà di sapere, la nostra volontà di verità, quindi non negare che ci sia una verità, ma chiederci che cos'è questa verità, che cosa ci fa volere, quali sono le condizioni, i dispositivi verranno fuori a un certo punto con i quali questa volontà di verità, diciamo, emerge. Restituire al discorso il carattere di evento: non c'è in Foucault nessuna possibile salvezza, scusate, so che non dovevo pronunciare una frase del genere, insomma, non si può fare niente di serio, niente di buono, secondo Foucault, se non si riconosce l'eventualità, il carattere dell'evento. Gli eventi avvengono, cioè se non si riconosce la discontinuità dell'evento, quindi se si cerca costantemente di buttare terra nella fessura per chiudere la faglia non si deve chiudere, l'evento deve rimanere un evento, deve rimanere una discontinuità. Terzo, togliere via la sovranità del significante, e qui sono serviti tutti quelli che pensavano che Foucault fosse uno strutturalista, cioè è tanto strutturalista che dice: voglio fare fuori uno dei pilastri dello strutturalismo reale, che è appunto quello che l'unica cosa che conta sono le relazioni tra significanti, e dei significati possiamo strabattercene perché tanto è soltanto la struttura o la forma eccetera che conta. E quindi dice quindi io vorrei fare alcune cose, e poi quindi fa un progetto, cioè, che poi alcune cose le fa e altre non le fa. Dice: alcune esigenze di metodo. Un principio di rovesciamento innanzitutto: laddove secondo la tradizione si crede di riconoscere la scaturigine dei discorsi, l'origine, pensate, il principio del loro proliferare, della loro continuità nelle figure che sembrano svolgere un ruolo positivo, come quello dell'autore, della disciplina, della volontà di verità, bisogna piuttosto riconoscere il gioco negativo di un ritaglio e di una rarefazione del discorso. L'autore, la disciplina, la volontà di verità non favoriscono la proliferazione del discorso, al contrario, la ritagliano, la ingabbiano. Ma una volta rintracciati tali principi di rarefazione, una volta che si sia cessato di considerarli come un'istanza fondamentale e creatrice, cosa si scopre al di sotto di essi? Si deve forse ammettere la virtuale pienezza di un mondo di discorsi ininterrotti? Qui occorre subito far subentrare altri principi di metodo. Un principio di discontinuità. Il fatto che ci siano sistemi di rarefazione non significa che sotto di essi, al di là di essi, possa regnare un gran discorso illimitato, continuo e silenzioso, che verrebbe ad essere da essi represso o rimosso e che noi avremmo il compito di far sorgere, restituendogli infine la parola. Sempre questa, lui ce l'ha sempre con questa concezione romantica del filosofo, del rivoluzionario, che toglie il velo, toglie i vincoli, toglie le catene, libera i matti, Pinel, eccetera, eccetera. È una stupidaggine questa, perché facendo così non fai altro che perpetuare, diciamo, lo stesso meccanismo di controllo. Non bisogna immaginare un non detto o un impensato che percorrano il mondo e che si intreccino in tutte le sue forme e tutti i suoi eventi, che si tratterebbe finalmente di articolare e di pensare. I discorsi devono essere trattati come pratiche discontinue, che si incrociano, si affiancano talora, ma anche si ignorano o si escludono. Un principio di specificità. Non risolvere il discorso in un gioco di significanti precostituiti, non immaginarsi che il mondo ci volga un viso leggibile, che non avremmo più che da decifrare. Il mondo non è complice della nostra conoscenza, non esiste una provvidenza prediscorsiva che lo disponga a nostro favore. Ho visto giusto prima allora, forse, se in questo rifiuto di subordinare la formazione discorsiva dalla pratica discorsiva ad altre pratiche. Occorre concepire il discorso come una violenza che noi facciamo alle cose, una violenza che noi facciamo alle cose, in ogni caso come una pratica che imponiamo loro, e proprio in questa pratica gli eventi del discorso trovano il principio della loro regolarità. Ne volevo dire molte altre, ma rischio di non potervi dire la roba fondamentale, ma ce la facciamo, perché a questo punto arriviamo. Allora, ricordiamoci del principio del rovesciamento, che comprende poi l'esclusione, la limitazione, l'appropriazione, vabbè, questo sarebbe dopo. E ricordiamoci degli altri tre principi, che sono discontinuità, ve l'ho detto, specificità, ve l'ho detto, esteriorità, che non ve l'ho detto. Discontinuità, i discorsi sono pratiche discontinue. Specificità, il discorso è una violenza fatta alle cose, una pratica imposta sulle cose. L'esteriorità, non andare dal discorso verso il suo nucleo interno e nascosto, verso il cuore di un pensiero o di un significato che si manifesterebbero in esso, ma a partire dal discorso stesso, dalla sua apparizione e dalla sua regolarità, andare verso le sue condizioni esterne di possibilità. L'esteriorità, il discorso è qualcosa che può esistere perché c'è un esterno, Il linguaggio esiste perché c'è qualcosa da dire, se non ci fosse niente da dire non ci sarebbe grammatica che conta, potrei tutte le grammatiche di questo mondo, ma no. Allora, ma a partire dal discorso stesso, dalla sua apparizione e dalla sua regolarità, andare verso le sue condizioni esterne di possibilità, verso ciò che dà luogo alla serie aleatoria di quegli eventi e che ne fissa i limiti. Quattro nozioni devono dunque servire da principio regolativo all'analisi: quella di evento, quella di serie, quella di regolarità, quella di condizione di possibilità. Esse si oppongono, come si vede, termine a termine. L'evento alla creazione. L'evento, la creazione, che vuol dire creazione? L'evento, qualcosa che emerge, fluttuazione quantistica. La serie all'unità. C'è nessuna unità, c'è una serie, una seriazione, le cose vengono... sono discontinue. La regolarità alla originalità, la condizione di possibilità al significato. Queste ultime quattro nozioni, significato, originalità, unità, creazione, hanno in modo assai generale dominato la storia tradizionale delle idee, ove di comune accordo si cercava il punto della creazione, l'unità di un'opera, di un'epoca o di un tema, il contrassegno dell'originalità individuale e il tesoro indefinito dei significati nascosti. Foucault è contro tutte queste cose, è contro il significato, che non vuol dire che è per il significante, contro l'originalità, contro l'unità, contro la creazione, perché vuole rivalutare l'evento, la serie, la regolarità, le condizioni di possibilità. nella sottile sfasatura che ci si propone di mettere in opera nella storia delle idee. È una sottile sfasatura. La storia delle idee, chiaro, la storia delle idee è apologetica, fa sempre l'apologia di una qualche teoria che deve essere giustificata o che deve essere oppure l'attacco a una che deve essere denigrata, ma non è un'archeologia, non è l'analisi di un discorso, la storia delle idee. Quindi si tratta di operare una sottile sfasatura. Nella sottile sfasatura che ci si propone di mettere in opera nella storia delle idee, che consiste nel trattare non tanto rappresentazioni che possono esserci dietro i discorsi, quanto i discorsi come serie regolari e distinte di eventi, in questa sottile sfasatura temo di riconoscere qualcosa come un piccolo e forse odioso macchinario che consente di introdurre alla radice stessa del pensiero il caso, il discontinuo e la materialità, un samurai, temo di riconoscere qualche cosa come un piccolo e forse odioso macchinario che consente di introdurre alla radice stessa del pensiero il caso, la discontinuità e la materialità. Guardate un po'. Triplice pericolo che una certa forma di storia cerca di scongiurare raccontando lo svolgimento continuo di una necessità ideale. La storia ideale eterna di Vico, materializzato dello spirito assoluto di Hegel o la società senza classi di Marx. Triplice pericolo che una certa forma di storia cerca di scongiurare raccontando lo svolgimento continuo di una necessità ideale. Tre nozioni che dovrebbero consentire di legare alla pratica degli storici la storia dei sistemi di pensiero. Tre direzioni che dovrà seguire il lavoro di elaborazione teorica. Seguendo questi tre principi e riportandomi a questo orizzonte, le analisi che mi propongo di condurre si dispongono secondo due insiemi. Da una parte l'insieme critico, che mette in opera il principio del rovesciamento, cercare di individuare le forme dell'esclusione, della limitazione, dell'appropriazione di cui parlavo poc'anzi, mostrare come si sono elaborate in risposta a quali bisogni, come si sono modificate o spostate, quale costrizione hanno effettivamente esercitato, in che misura sono state aggirate. Allora, con questa operazione di sabotaggio del pensiero e del soggetto come sostanza, che consiste nell'introdurre alla base il caso, il discontinuo e la materialità, ha una dimensione che lui credo giustamente chiama di critica. Questa è la critica. In fondo è lo stesso programma di Kant, solo questa volta preso sul serio. Kant non l'ha fatta una vera critica, ma anche questo l'aveva già detto Nietzsche ben prima di Foucault. E quindi cercare il modo in cui l'esclusione, la limitazione, la appropriazione hanno agito o reagito sul discorso. Quindi il modo in cui il discorso è stato escluso, limitato o appropriato, e quindi fatto proprio da qualcuno, come si sono elaborate, in base a quali bisogni, come sono modificate e spostate, quale costrizione hanno effettivamente esercitato, in che misura sono state aggirate. Ma ecco che arriva la parola magica. D'altra parte l'insieme genealogico, questo è l'insieme critico. Da un lato c'è la critica, dall'altro c'è la genealogia. Dall'altra parte l'insieme genealogico che mette in opera gli altri tre principi: discontinuità, specificità, esteriorità. Come si sono formate attraverso o a dispetto o con l'appoggio di tali sistemi di costruzione delle serie di discorsi? Qual è stata la norma specifica di ciascuna serie di discorsi? E quali sono state le loro condizioni di apparizione, di crescita, di variazione, esteriorità? Allora, mi pare che in queste poche righe del 1970, della fine del 70, sia enunciato abbastanza chiaramente. Poi nelle pagine precedenti Foucault aveva enunciato una serie di linee di ricerca, alcune delle quali svilupperà successivamente la più famosa delle quali è La storia della sessualità, altre invece non le, come dire, supera. Ma dal punto di vista del metodo direi che adesso a questo punto è chiaro, anche forse, o comincia ad essere chiaro, cominciano ad essere chiari quali erano i limiti del discorso archeologico. Detta sempre come la posso capire io e dove, fin come ci posso arrivare io, nell'archeologia, da un certo punto, nell'archeologia c'è già una componente genealogica, c'è, perché se no non si capirebbe perché, ma in tutta l'archeologia la dimensione critica e quella genealogica sono mescolate. Foucault non era ancora arrivato, poco dopo la metà degli anni 60, a mettere a fuoco, sicuramente non l'aveva chiaro quando scrisse La storia della follia e Le parole delle cose, ma neanche quando scrisse La follia. Aveva già in mente più o meno, sapeva di che cosa voleva parlare, certo, perché è qua che emerge il concetto di discorso, quindi l'enunciato, l'archivio, eccetera, eccetera. Aveva già maturato e reso esplicita l'idea che il linguaggio è una pratica e che quindi tutte le pratiche, aveva già chiaro molti dei bersagli polemici contro cui, quindi volontà di verità, soggetto, questo era già arrivato, ma probabilmente a metà degli anni 60 non aveva ancora chiaro, e forse questo sarebbe bel lavoro da fare, volendo, non lo so, io non sono in grado di farlo perché la mia testolina non, diciamo, ci arriva, ma c'è qualche ragione per la quale di questi quattro principi che lui dice, uno sta da una parte, quello del rovesciamento, ed è quello che determina poi il programma della critica, gli altri tre stanno tutti e tre dall'altra parte, perché hanno delle relazioni tra loro, evidentemente, la discontinuità, la specificità, l'esteriorità, e quindi sono quelli che realizzano il diciamo, però realizzano la parte più interessante, più, perché so, la critica adesso va bene, bisogna farla, è giusto, così la facciamo, eccetera, insomma, però come dire, un conto è, vabbè, rovesciamo, la critica è la cosa più simile alla dialettica che c'è ed è quella più facilmente inquinabile, scusate il termine un po' di parte, dalla dialettica, la critica, perché operando sul principio di un rovesciamento c'è sempre il rischio, no, che si trasformi in cosa, dice, oh, adesso però ma se rovesciamo, ma allora quello che prima voleva dire A adesso è B, allora ci sarà la sintesi dopo, ok, no. Mentre è la genealogia, cioè la garanzia, c'è un po' più di garanzia, insomma, sul lato genealogico, secondo me, che si scoprirà qualche cosa di interessante, perché i principi sono più concreti, cioè rovesciamento, discontinuità, specificità e severità, no, discontinuità. Cioè, ci sono degli eventi da analizzare, come si sono prodotti, quali sono state le rotture che hanno, la specificità, in che senso uno era diverso dall'altro, l'esteriorità, da quali relazioni sono nate con il mondo, con l'esterno dell'avvenimento, e come. Fatemi dire anche quest'ultimo, da cui io sarò sputtanato la vita, lo so, ma insomma, mi parrebbe, si potrebbe dire, credo, che c'è qui all'opera una cosa che è diventata cosciente solo più tardi, e cioè la polarità tra metafora e metonimia. Il rovesciamento mi pare tanto come un principio di tipo metaforico. Rovescia, prende delle cose lontane, ne avvicina, allontanate. Discontinuità, se c'è una rottura devo stare lì, accidenti, non è che posso parlarne, sì, lo posso vedere da fuori. Specificità, devo essere lì, è qualche cosa, specificità perché questa pratica sarà diversa da quella che sta lì, se è diversa da quella che sta là, grazie all'anima, lo so anch'io, è lontanissima, sarà pure diversa. Ma perché è diversa rispetto a questa che sta vicino qua? Eh? È la vicinanza che rende interessante un'analisi sulla specificità. L'esteriorità è una superficie che preme, eh? È un concoide che è un qualche cosa che avvolge, è l'ambiente, in tutti e tre questi casi è qualche cosa di vicino, eh? Quindi diciamo nel linguaggio metonimia, la figura retorica che ci racconta, che si basa sulla vicinanza degli oggetti, non sulla loro lontananza, nuove relazioni inedite che si scoprono tra oggetti vicini, tra oggetti presenti entrambi, non tra oggetti assenti. Allora, e come Jacobson e successivamente Luisa Muraro diversi anni, come dire, più tardi, sostennero che tutti e due gli assi, tutti e due i punti di vista sono importanti, quindi sia quello, come dire, metaforico che quello metonimico, ma questo dice la Luisa Muraro, Jacobson non lo dice nello stesso modo così chiaro, ma insomma, siccome nelle pratiche c'è stata per tutto il corso della modernità una sopravvalutazione del polo metaforico rispetto a quello metonimico, la metafora ha messo in ombra la metonimia, l'astrazione ha confinato la concretezza, la teoria ha tentato di dominare sulla pratica, non ci sono crisi, così sono andate le cose nella storia dell'Occidente. Ed è importante che, prendendo a prestito una coppia di una insomma, distinzione oppositiva, una doppia categoria concettuale elaborata da un linguista, forse la più importante delle femministe italiane degli anni, diciamo, 60, abbia deciso di investire, parlando di questa cosa, poi ovviamente insomma, questo le serviva per capire, comunque leggetelo il libro se avete voglia, è molto bello, si chiama La maglia e l'uncinetto, e ovviamente parla di ovviamente la maglia è la metafora e l'uncinetto è la metonimia, certo. Allora, a me pare che in qualche modo anche il privilegio che da questo punto in poi, dal 1970 in poi, nei 14 anni successivi, Foucault dà al proprio lavoro di genealogista rispetto a quello di critico, non che smette di fare la critica, ma insomma fa più genealogia che critica, critica ne ha fatta molta nel corso precedente, mi pare che potrebbe essere così, anche che potrebbe essere letta anche in questo modo, come una delle forme. Resta da convedere il termine, accidenti, il termine, qui siamo sempre lì, come per discorso, come per episteme, come per... Foucault lavora realmente con dei concetti e dei modi di considerare le pratiche realmente nuovi, innovativi. Bisognerebbe coniare dei termini nuovi, quando c'è una rottura così forte bisognerebbe coniare dei termini nuovi. Ma coniare dei termini nuovi, coniare neologismi, Foucault qualche volta l'ha fatto, biopolitica, governamentalità, me ne scappano altri, insomma, l'ha fatto. Però in tanti altri casi si è limitato a prendere delle parole che c'erano già e gli ha cambiato significato, discorso, enunciato, l'abbiamo già visto varie volte. In questo caso direi che ha fatto qualcosa a metà, di intermedio. Ha preso un termine che era già stato usato, ma non così, diciamo, ampiamente e decisamente teorizzato come asse di metodo. Ovviamente sapete tutti che questo è, diciamo, il termine è, diciamo, nietzscheano, una delle opere della Nietzsche, si chiama Genealogia della morale. Però Nietzsche non ha mai fatto, Nietzsche a volte anche scrive, però non ha mai avuto una coscienza così chiara come ce l'ha avuto Foucault, e ovvio, viene dopo. No. Naturalmente c'è un rischio, c'è un pericolo. Il modo in cui il termine genealogia, genos logos, è il discorso del genos. Il genos è la stirpe, il genos è il genere, è il grande raggruppamento, ma guardate un po' come mai, non a caso, genealogia ha poi finito per voler dire nel suo linguaggio comune, diciamo, il discorso sull'origine, da dove partono le cose, come andarono, chi ha creato il mondo, cosa che è successo quando è stato il Big Bang. Questa è la genealogia, da dove viene la famiglia di quelli che hanno il cognome doppio, quindi dei davanti molti, insomma. Allora, dalla prossima volta quindi vedremo, analizzeremo specificamente un testo abbastanza breve di Foucault, che è quello che vi ho dato prima, quindi Nietzsche, la genealogia della storia, vedremo entro quali limiti, vedremo che Foucault è molto cosciente di questo rischio, perché una parte di questo breve scritto è dedicato proprio a questo possibile equivoco e al togliere l'equivoco da questo punto di vista, e cercheremo anche di capire, cercherò di capire con voi, perché non l'ho capito ancora bene del tutto manco io, ma insomma, in che cosa, cioè come, diciamo, che cosa ha preso Foucault, cioè di Nietzsche, e che cosa ha lasciato indietro, diciamo, di Nietzsche. Siccome Nietzsche, la storia, non è né un libro né un saggio su Nietzsche in quanto tale, ma dice esattamente, vuole parlare di queste tre cose: il concetto di, diciamo, genealogia, le pratiche storiche e il modo in cui Nietzsche ha fatto queste cose. Già chiaramente il titolo ci dà una qualche indicazione, però ci scaveremo sopra un po' meglio e vedremo. Tutto il resto ve l'ho detto, vi saluto, buona serata.